Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. In questi giorni è ricorrente una sorta di mantra, una frase effetto che si sente ripetere continuamente nei salotti televisivi, ormai fino al tedio di risentirla ancora. Non si può negare a un bambino il diritto di avere un papà e una mamma. E di fronte a questo, naturalmente, tutta l'Italia si inginocchia, perché quanto c'è il più di sacro, indissolubile, è il lauro terzetto di bambino con la mamma e il papà, che è una cosa fantastica. Quando esiste nella giusta armonia e nel giusto equilibrio, è chiaramente la condizione migliore che conosciamo noi perché una persona possa serenamente vivere una sua vita di giusta evoluzione. Questo è un argomento naturalmente dibattuto, perché si sa che in questo momento è alla discussione una norma che dovrebbe, da un certo punto di vista, fare un passo avanti nella civiltà del nostro paese, quella che permette anche alle coppie di persone dello stesso genere comunque di unirsi in un'unione che è un matrimonio a tutti gli effetti e di poter adottare dei bambini. D'altro punto di vista è una sorta di spaccatura nell'ordine cosmico delle cose, per cui improvvisamente quello che è il sistema, il modello naturale di famiglia esploderà, ci sarà un'apocalisse, succederà di tutto. Perché facciamo questa trasmissione? Questa trasmissione la facciamo per ricordare che in realtà, in termini di diritto, già esiste in Italia una legge che ha 30 anni, che permette a due persone, anche dello stesso genere, oppure a un singolo maschio o una singola femmina, o una coppia che vive mor uxorio, non necessariamente unita a matrimonio, di adottare dei bambini. È una legge che permette di farlo soltanto per casi particolari, infatti si chiama adozione in casi particolari. È legata ad alcune caratteristiche che debbono avere questi bambini. Deve esserci un particolare disagio nella famiglia d'origine per cui questi bambini adottabili ma vivono in una situazione che nessuno li adotta, oppure sono bambini che portano un handicap ai sensi della legge 104, cioè bambini con portatori di handicap, oppure orfani di entrambi i genitori, oppure altre circostanze per cui un tribunale stabilisce è talmente grave la loro condizione di essere solitari, abbandonati, che nessuno si prende, nessuno vuole, che noi possiamo decidere che la cosa migliore per loro sia qualcuno che se li prenda in adozione e diventi genitore a tutti gli effetti. E questo qualcuno, per questa legge che ha 30 anni, può essere indifferentemente un uomo, una donna o anche una coppia di persone che non vivono mor uxorio senza che siano sposati. Naturalmente c'è un rigoroso iter da stabilire un tribunale che abbiano le attitudini per farlo. Poi, perché quelli che pensano che oggi improvvisamente si aprirà il cielo e scenderanno i fulmini divini, perché qualcuno vuole stabilire per legge che per gestire un bambino non necessariamente occorre essere un uomo e una donna uniti dal sacro vincolo del matrimonio, faremo questo chiarimento per quanto possibile. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024 per tutti coloro che fossero interessati al problema che ho annunciato, avessero elementi da aggiungere, avessero perplessità, dubbi. Questa mattina cercheremo per quanto possibile di capire esattamente cosa dice già la legge italiana, il diritto italiano, rispetto alla possibilità che per allevare un figlio nelle migliori condizioni non necessariamente debba esserci una coppia composta da un uomo o da una donna o unita da un vincolo matrimoniale. Chiaramente parliamo di una legge che parla di adozioni in casi particolari. Entriamo nel merito, così capiamo immediatamente di cosa stiamo parlando. Frida Tonizzo, buongiorno. Buongiorno. Parlo con la consigliera nazionale dell'ANFA, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatari. Vorremmo capire questa mattina esattamente, che già corre in rete comunque una semplificazione forse un po' esagerata, la stepchild adoption già esiste in Italia, di cosa stiamo parlando? Esattamente, questa legge del 4 maggio 83, numero 184, all'articolo 44, adozione in casi particolari, cosa dice? Allora, vorrei fare anzitutto una premessa. Nel 1983 è stata riformulata la legge sull'adozione che era nata nel 1967, in base alla quale sono state definite le caratteristiche di quella che è diventata l'adozione, con la maiuscola, a tutti gli effetti, come legittimante, che riguarda i minori vengono dichiarati adottabili a seguito di un procedimento estremamente garantito, su cui adesso non sto a caso, non so soffermarmi, e che una volta dichiarati adottabili vengono poi adottati da coniugi o persone che hanno convissuto prima del matrimonio, che devono avere dei requisiti che riguardano la loro identità affettiva, educativa, una differenza di età e quant'altro. Quindi l'idea del legislatore era quello di trovare per un bambino o ragazzino, cioè per un minore, di cui ha accertato uno stato di adottabilità irreversibile, una famiglia la più possibile a quella dei suoi coetanei. Quindi diciamo condizioni particolarmente disagiate per il benessere, ecco, di un minore, poi, per cui è talmente disagiata la situazione che la miglior soluzione possibile è affidarlo a una persona che se ne occupi, sia essa maschio, femmina, sposato, coniugato, moruxorio. Questa è la sintesi. Ecco, questa però era, come diceva la dottoressa, restavano fuori alcune situazioni specifiche che il legislatore ha raccolto in questo articolo 44, in cui sono state previste delle tipologie particolari di adozione, di questa adozione, che riguardano ad esempio i minori che restano orfani di entrambi i genitori e che in base alla lettera possono essere adottati da parenti o persone che avevano un rapporto maturato, un rapporto stabile e duraturo con questi orfani, anche nell'ambito dell'affidamento familiare. Tra l'altro questa è una casistica che è stata richiamata anche e precisata dalla recente legge, la 173 del 2015, sulla tutela della continuità degli affetti dei minori affidati. Però poi ha previsto una seconda casistica, che era quella della possibilità di adozione da parte del coniuge nel caso del minore che sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge, che è la casistica più numerosa anche, che riguarda appunto situazioni che non hanno niente a che vedere con lo stato di adottabilità, se non il fatto che magari questo bambino o ragazzino, pur avendo magari un genitore d'origine, questo non è più in grado di provvedere alle sue necessità ed è adottato dal coniuge del proprio genitore. Cioè, faccio l'esempio: due persone si sposano, uno ha già un figlio di un precedente matrimonio, uno può adottare il figlio. Esatto, ma vale esatto, anche per le coppie di fatto. Il padre è sparito dalla circolazione, c'è stato un decadimento della responsabilità genitoriale perché non se ne è mai più occupato dopo la separazione, il divorzio, eccetera, eccetera. Queste possono essere queste casistiche che rientrano nel punto B. Poi ci sono due punti successivi, il C e il D, che riguardano minori con situazioni particolari. La prima riguarda bambini e ragazzini che hanno un handicap accertato e quindi bambini per cui magari non si è riusciti a trovare una famiglia fra quelle che hanno presentato, seppur numerose, domande di adozione, e quindi pur di dare una famiglia a questo bambino disabile si ricorre anche a eventuali disponibilità di persone che non rientrano. Quindi bambini con un handicap però abbandonati la famiglia d'origine, lasciati la famiglia d'origine. Dichiarati adottabili, dichiarati adottabili. E anche il punto successivo, parliamo di minori dichiarati adottabili, per cui non è stato possibile arrivare all'inserimento in una famiglia allargata e che trovano una famiglia, nel senso che vengono poi adottati in base a questa adozione in casi particolari, lettera D, da persone singole. Cioè sono quei bambini, diciamo, che in teoria sarebbero adottabili, che però non hanno trovato qualcuno che li adottasse. Sono bambini adottabili, non hanno trovato magari tribunali e servizi fra le famiglie sposate, i requisiti, eccetera. Non li voleva nessuno. E pur di dare una famiglia vengono accolte anche domande di persone singole. Devo dire che nell'esperienza questo articolo è stato applicato soprattutto a persone singole che avevano maturato nel corso degli anni un rapporto con questo minore che poi è stato dichiarato adottabile, perché magari erano l'insegnante di questo bambino e hanno magari seguito durante la permanenza in comunità, poi hanno accolto in affidamento, oppure... Comunque parliamo sempre di bambini... bambini che alle spalle hanno situazioni particolarmente disagiate, con una famiglia d'origine con particolari problemi. Ma i bambini che sono stati in disabilità. Allora ci fermo solo un secondo, mi scusi Filato Mizzo, la richiamiamo perché sente proprio male la telefonata. Chiamo intanto Francesco. Francesco, buongiorno. Sì. Diciamo buongiorno. Io volevo portare una testimonianza molto importante a riguardo proprio dell'adozione. Il discorso parliamo di adozione in casi particolari, però parliamo. No, sì, d'accordo, però tutte le adozioni alla fine sono casi molto particolari. Sì, ma questa è una norma di, una legge che dice proprio adozione allora, in casi particolari. Certo, io le dico questo, l'atto fondamentale spetta al Tribunale dei Minori, perché sono loro certo. che in ogni modo valutano i futuri genitori o l'atto genitoriale. Sicuramente. E a un certo punto il giudice stesso, insieme agli psicologi, valutano nei minimi particolari. Beh, questa è tutela del minore, certo. Certo, ma non solo, ma anche all'estero questo accade. Accade nei paesi dove uno può pensare che ci sia chissà quale situazione, in realtà i tribunali dei minori sono molto attenti a queste situazioni. Questo lo sappiamo. Non solo, le dico questo, io ho un'esperienza personale. Le posso dire che a fronte di uno che si reca ad adottare un bimbo all'estero, a parte i 3 anni d'Italia di iter... Sì, scusi, no, Francesco, non è che voglio il senso del suo intervento, mi scusi, stiamo parlando di un caso molto particolare. Nessuno mette in dubbio, è chiaro, siamo in un paese civile in cui i tribunali dei minori accertano con grande scrupolo le capacità delle persone di adottare, però ci sono dei casi particolari, si chiama adozione in casi particolari, che è una norma, in cui delle norme generali valgono in maniera diversa, cioè abbiamo detto bambini con portatori di handicap adottabili, orfani di entrambi i genitori, persone in stato di adottabilità che però nessuno adotta, oppure figlio di un coniuge che si risposa in un secondo matrimonio, può essere adottato con tutte queste garanzie anche in assenza di lo stato di coppia di uomo e donna, può essere adottato sia da un uomo, sia da una donna, da un single, da persone che vivono moruxoro. Su questo stiamo ragionando. Su questo aveva qualcosa lì. Le posso dire questo, nel caso di morte di tutti e due i genitori, orfano, va bene? Sì. La cosa che si vuole è che il bambino comunque abbia un padre e una madre. No, non è così, nel caso di orfani di entrambi i genitori può adottarlo anche un single. Guardi, certo, tutto si può fare perché la legge ultimamente contempla anche questo, però le posso dire una cosa? Sì. Il bimbo vuole il padre e la madre. Ha ribadito la banalità da cui siamo partiti, quindi la saluto. Frida Tonizzo, ritorniamo alla legge. Come vede, esiste un portato ideologico che va oltre quello che in realtà è una realtà dei fatti. Noi stiamo capendo che il nostro diritto è talmente ampio e talmente comprensivo del fatto che il diritto a una vita felice e soddisfacente di un essere umano, in questo caso di un bambino, quindi indifeso, è talmente importante per cui in certe situazioni si possa anche derogare dal fatto che abbia un padre o una madre. Esattamente. Certamente. Su questo l'abbiamo detto. Nell'interesse del bambino è stato previsto questa possibilità. Lo scopo di aprire anche alla disponibilità di persone singole, pur di dare una famiglia a bambini che altrimenti non l'avrebbero, era la preoccupazione delle che genitori. Mi sembra sacrosanta, tra giusto? Tra l'altro questa, voglio dire, questa legge ha visto fra i suoi promotori grandi giuristi come Alfredo Carlo Moro, Giorgio Battistacci, cioè negli anni Ottanta. Ma io trovo che sia estremamente, era una legge estremamente giusta, che era questa stata legge pensata nell'interesse del bambino. Mi lasci dire che uno dei grossi rischi che continuamente corre l'istituto dell'adozione, mai come in questo periodo, è che si pensa all'adozione come un diritto dell'adulto ad avere comunque un figlio, ma questo per le coppie sposate, per le coppie conviventi, per i singoli. Lo scopo dell'adozione è quello di riconoscere il diritto del bambino che è in stato di adottabilità, che se anche una famiglia ce l'aveva non ce l'ha più, perché questa famiglia si è constatato attraverso un procedimento attento che non è in grado di fare famiglia per di essere famiglia per questo bambino, di dargliene un'altra. E seconda cosa, se io parto dall'interesse preminente di un bambino, devo cercare di dargli una famiglia il più possibile simile a quella dei suoi. Però vorrei fare una riflessione insieme a lei, Frida Nizzo. Quello che vale per questi bambini, che a tutti gli effetti sono figli di un dio minore, perché hanno una famiglia non più degna di o più capace di accudire a loro, hanno un handicap, quindi sono portatori di un handicap, sono bambini comunque diversi da un bambino che è facilmente, più facilmente gestibile. Sono bambini adottabili ma che nessuno ha voluto adottare, non so le ragioni, saranno bambini che nessuno ha voluto, stanno in attesa di adozione, nessuno ha voluto. Pur di far avere a questi bambini una vita decente, piuttosto che farli stare chiusi in un istituto, si dice: se troviamo persone adatte a gestire questi bambini, glieli diamo, non ci interessa se siano maschi, femmine, sposati, viventi in Moro Xoro. Ma questo principio non può valere anche per tutti i bambini, perché deve valere soltanto per i bambini che non vuole nessuno, per i bambini di serie B, diciamolo chiaramente, quelli che non sono in un mercato dell'adozione, il termine me lo faccia passare. Non può valere anche per gli altri bambini, perché oggi tutti si stracciano le vesti. Impossibile che un figlio possa nascere in una famiglia non c'è un papà e una mamma. Se può viverci un bambino con handicap, un bambino con dei traumi alle spalle fortissimi, un bambino che nessuno vuole in adozione, non può viverci un bambino bello, tranquillo, sereno e sorridente? Ma credo che la questione vada reimpostata, nel senso di dire: se un bambino in queste situazioni l'estremo rimedio, no, cui si ricorre, se si può però risolverla con la prima opzione, che è quella che dicevo io, nell'interesse del bambino credo che sia molto meglio. In assoluto. Come dicevo, un figlio adottivo grande, no? Diceva: ma qualcuno mi deve spiegare che io, solo perché ero dichiarato adottabile, avrei dovuto accontentarmi di un genitore solo, quando me ne potevano dare due, una mamma, un papà e magari eventuali altri fratelli e sorelle. Cioè, bisogna valutare, partire dall'interesse del bambino, perché se partiamo dall'interesse dell'adulto e subordiniamo a questo quello del bambino, è chiaro che si spalanca tutti possono adottare, che era la situazione peraltro presente prima del 1960, in cui del 67 bastava avere dei figli, essere 45-50enni e senza nessuna valutazione preventiva dell'idoneità o altro, io potevo accordarmi con un istituto, prendere un bambino e poi andare in tribunale e chiedere l'adozione, che allora si chiamava ordinario tradizionale. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a non considerare un'eccezione una possibile regola. La regola dovrebbe essere che un bambino che viene segnalato all'autorità giudiziaria, perché potrebbe essere uno stato di adottabilità di cui si accerta lo stato di adottabilità in maniera approfondita, perché le decisioni sono prese, abbia una famiglia, diciamo, costruita come siamo abituati noi nella tradizione, questo è chiaro. Esiste però questa possibilità di eccezione. Mi fermo soltanto un istante per dare la linea alla borsa. Se fosse così cortese di riprenderci un attimo fra un minuto, ho alcune domande che fanno gli ascoltatori da proporle. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog. Cronache meridiane. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Volevo soltanto precisare una cosa. Io sono un padre adottivo e abbiamo adottato una bambina cinese un anno fa ormai. Il corso, vabbè, sempre quello dei 3 anni, però abbiamo dovuto sottoscrivere per accettazione una lista di cosiddetti special needs, bisogni speciali. E quindi in questa lista, che ha grosso modo un'elencazione intorno ai 25-30 casi, contiene di tutto, cioè andiamo dalle dita palmate alla labio palatoschisi, al piedino torto, problemi cardiaci, l'epatite C, l'HIV. Tutti i problemi che ha sua figlia? Tutti i problemi che ha sua figlia sono? Non ho capito bene, forse, scusa. No, noi abbiamo dovuto sottoscrivere una, per accettazione, una lista, perché il bambino o la bambina che ci sarebbe stata data in adozione avrebbe sicuramente avuto uno o qualcuno di quegli elementi. Poteva avere degli elementi, sì. Esatto, noi abbiamo accettato quello che riguardava il piedino torto e la labio palatoschisi. Uno poteva scegliere il tipo, diciamo, di problema che poteva avere la bambina. Esatto, esattamente così. E questa è una norma cinese? No, credo che questa sia proprio una norma che non so se è del CAI, piuttosto, perché ci sono anche bambini con problemi che provengono anche da altri paesi, dalla Colombia piuttosto che dall'Etiopia, dalla Bulgaria, dalla Russia, dove non sono poco frequenti i casi di una ripercussione di sindrome fetoalcolica. Sì, con genitori alcolisti che ci sono. Sì, esatto, esatto. Ci sono situazioni di questo tipo, insomma. Quindi ogni paese ha le sue problematiche e quando si sceglie di adottare in questo o in quel paese ci sono, secondo statistiche, dei bambini che possono avere una serie di problemi. E quindi noi ci dobbiamo preparare, soprattutto psicologicamente, al fatto che se viene con quelle anomalie, se si tratta di cose reversibili o irreversibili. Cioè, c'è anche la sindrome di Down, certo, nell'elencazione. Sì, sì, sì. Quindi uno può anche scegliere di adottare un bambino con un problema di handicap. Però esatto. La sua precisazione ci dà altri elementi comunque di valutazione. Parlava della Commissione Adozioni Internazionali, ma in questo caso vorrei restringere però il campo all'argomento da cui siamo partiti, che vi riassumo in una domanda che può essere provocatoria. Abbiamo visto che in Italia da 30 anni comunque c'è una norma che prescrive che per l'interesse superiore del bambino, quando il bambino appartenga ad alcune categorie particolarmente difficili, le riassumo, è un bambino adottabile ma che nessuno vuole, nessuno lo adotta, non so perché non piace, perché ha dei problemi, perché viene probabilmente in una famiglia molto problematica e quindi ha in sé probabilmente dei traumi, comunque un bambino adottabile che nessuno vuole, oppure un bambino con handicap che i genitori non se la sono sentita di tenere e hanno affidato a un istituto, quindi è un bambino con handicap che sta in un istituto, oppure altri casi più legati comunque alla frequentazione già precedente delle persone che vogliono adottare di questo bambino. Beh, in questo caso un bambino, diciamolo chiaramente, che nessuno vuole, quindi un bambino di serie B sul mercato delle adozioni, può essere dato in adozione comunque a un uomo, a una donna, a una coppia che vive in Moruxori. Non ti chiedo che tu sia sposato, papà e mamma. Per la stessa ragione, se una persona single, se un uomo, una donna, senza che gli si chieda quali siano i suoi costumi sessuali, le sue preferenze in campo amoroso, può prendersi cura di un bambino molto difficile da gestire come genitore, perché secondo voi non può farlo anche per un bambino che stia bene, che non abbia nessun problema? Perché questa legge vale soltanto per i figli di un dio minore e perché non può essere estesa a tutti i bambini? Gianettore Gassani, buongiorno. Buongiorno a voi. È peregrina la mia domanda, avvocato Gassani? No, assolutamente no. Io credo che si stia facendo una grande confusione sulla questione delle adozioni, soprattutto sulla stepchild adoption. Ne parliamo oggi a Bologna con l'associazione ANI. Ecco, ricordo che l'avvocato Gassani, non lo cito perché ormai è ospite fisso, spesso sì. È presidente l'AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, ha recentemente pubblicato un libro. La sala Marco Biagio, il quartiere Santo Stefano a Bologna, abbiamo un grandissimo convegno con tantissimi esperti in materia per parlare di stepchild adoption. Quindi voi state facendo un convegno a Bologna dove proprio l'argomento è proprio quello che in questo momento è quello più scottante. Assolutamente sì, parliamo delle adozioni in senso lato, dei costi, dei tempi, di questo ginepraio di difficoltà, di tante cose incerte che ci sono nelle adozioni, ma anche di questo, perché la politica parla e litiga su questa adozione del coniuge, del compagno dello stesso sesso, del bambino, del figlio del compagno dello stesso sesso, però probabilmente dimentica che c'è una norma, l'articolo 44 della legge 184, che già prevede una soluzione di questo tipo in casi particolari. Ma questa norma sarà mai applicata nel caso di una coppia di persone dello stesso sesso? Assolutamente sì. L'anno scorso il Tribunale per i minorenni di Roma accolse l'istanza di adozione di una coppia di due donne omosessuali. La bambina era figlia biologica di una delle due e quindi il Tribunale per i minorenni, attraverso il giudice Cavallo, il presidente del giudice Cavallo, applicò l'articolo 44 della legge 184, poiché era stato provato che la bambina e la compagna della madre avevano costruito un rapporto stabile e duraturo e quindi si voleva tutelare questa bambina che non aveva altri parenti al mondo nell'eventualità della primorienza della madre biologica, quindi una sorta di tutela patrimoniale del nonno. A tutti gli effetti, è quello di cui tutti oggi hanno paura, pensano che succeda chissà cosa. Cioè, in Italia già c'è una legge che permette a una coppia di persone che vivono assieme, anche dello stesso sesso, se uno dei due ha già un figlio di un precedente matrimonio, precedente unione, o comunque ha un figlio suo, anche adottivo, adottato un bambino, che l'altro compagno possa adottarlo anche lui. Ma vale anche questa norma vale anche per i single, vale anche per le coppie eterosessuali, vale per le coppie quindi anche omosessuali, per tutti, attenzione, non è una norma fatta solo per le coppie dello stesso sesso. E comunque questa sentenza, questo decreto del Tribunale per i minorenni non sdogana comunque il principio assoluto della possibilità delle persone dello stesso sesso di adottare un bambino non proprio. Questa è tutta una questione che andrà stabilita poi in sede parlamentare, ma per quanto riguarda i casi eccezionali, particolari, di bambini che non hanno più nessuno al mondo al di fuori del genitore, che si parla di rapporti costruiti, cementati nel tempo, il Tribunale può, caso per caso, decidere laddove concedere l'adozione e laddove non concederla. Per cui mi pare, ripeto, che la politica dovrebbe forse interpellare un po' di più gli avvocati e i magistrati prima di fare gli scontri in aula, che molte volte francamente ci lasciano un po' basiti, anche perché sentiamo delle inesattezze giuridiche che non sono sopportabili in un paese importante come l'Italia. Vediamo di definirne qualcuna. Una di queste, diciamo, è una maggiore informazione sul fatto che comunque viene detto che assolutamente è una cosa assolutamente improbabile in termini di diritto che in una famiglia ci sia anche soltanto un genitore o soltanto due genitori dello stesso genere, ma in realtà per i bambini, diciamo, più problematici che nessuno vuole, diciamolo, questo è possibile. Che, ripeto, non significa essere d'accordo o non d'accordo per le adozioni. Sì, chiaro. Questo non c'entra niente. Diciamo che c'è una legge, c'è già una legge, allora discutiamo su quello che c'è. Come posso anche dire, apro e chiudo una parentesi, che questo disegno di legge della senatrice Cirinà, che io comunque approvo in linea di principio, altro non è che un vero e proprio matrimonio delle coppie dello stesso sesso. Se andiamo a guardare le norme, norma per norma, cavillo per cavillo, è un vero e proprio matrimonio. Quindi credo che si sta giocando molto su ciò che c'è, che si fa finta che non ci sia, e su ciò che viene chiamato in modo diverso per sdoganare alcune cose, alcuni istituti ed evitare una vera e propria guerra civile in Italia. Io credo che le cose vanno dette chiaramente. L'attuale impostazione del disegno di legge Cirinà è impostazione di un matrimonio. Ma fermiamoci solo un secondo. Perché credo che i diritti sono di tutti. Gianetto, ma le cose come stanno? Dobbiamo dare la linea un attimo. Riprendiamo il punto esattamente con te fra questo. Noi stiamo parlando di qualcosa che comunque ricalca, si sovrappone a norme già esistenti e bisogna chiamare le cose con il loro nome. Dice l'avvocato Cassani, che si occupa di diritto matrimoniale da anni, in realtà la legge Cirinnà parla di matrimonio, tanto vale, invece che chiamarle con nomi fantasiosi o con eufemismi, non sto parlando di matrimonio. Per quanto riguarda le adozioni, la stepchild adoption, che è un termine di cui ci stiamo riempendo tutti la bocca, abbiamo già una normativa che comunque prevede che in casi particolari non si guarda in faccia al fatto di sia uomo o donna, sposato o non sposato. Se il bambino ha una situazione molto particolare, se per lui è la cosa migliore, viene nominato genitore anche una persona che vive single, ad esempio. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Leggo qualche messaggio. Dice: tutti questi cavilli potrebbero avere un senso se gli orfanotrofi fossero vuoti. Meglio che i bambini restino là oppure trovino qualcuno che li voglia bene, anche se questo fosse gay. E questo è un ascoltatore, altri mi danno del maleducato. Sono maleducato, non mi va di perdere tempo ripetendo banalità. Enrico, buongiorno. Sì, salve Nicoletti. Senta, io volevo dire che dopo aver sentito anche questa trasmissione trovo il dibattito, soprattutto le posizioni di certe persone, veramente ipocrite. Perché io non ho capito, cioè tu sei sfigato dalla nascita e allora chiamiamo in causa gli sfigati. Chi invece, diciamo, è normale, non ha nessun problema, può essere adottabile per una famiglia standard. Cioè, poi magari gli stessi che dicono che sono a fautori, diciamo, di questa teoria della famiglia standard, e incensano chi effettivamente si prende l'handicappato, il disagiato, però non gliene frega niente a quel punto se è un single, se sono una coppia omosessuale, se è un vedovo, una vedova, se sono due che vivono mori uxorio, che possono, sì. Quindi Enrico, certo. Lei ribadisce quello che io, le mie trasmissioni partono non da una tesi che io voglio dimostrare, ma dalla mia curiosità. Siccome mi era balenata questa idea, avendo visto in rete qualcuno che discuteva, questa mattina volevo porre all'attenzione di persone che conoscono la materia e del pubblico questa domanda. Visto che oggi c'è questa difesa strenua, che è diventata una parola d'ordine, ho detto all'inizio, quasi un mantra, non si può negare a un bambino il diritto di avere un papà e una mamma, vero, sacrosanto, se ce l'hanno tutti, devono averci tutti. Però in alcuni casi ci sono alcuni bambini particolarmente sfigati, a cui questo diritto può essere anche, diciamo, in qualche maniera subordinato al fatto che abbiano delle persone che si occupino di loro, che abbiano la coscienza, la capacità di occuparsi loro. Questi sono bambini orfani, ripeto, portatori di handicap, che vengono da situazioni molto particolari e molto difficili, bambini che nessuno vuole, che nessuno si vuole prendere. Quindi, visto che non li vuole nessuno, si può prendere le persone che in fondo vivono sole, sono coppie. È stato già applicato, diciamo, a delle coppie di persone che vivono assieme, a cui nessuno chiede, vivete assieme, fate l'amore, andate a letto assieme, io vado ad adottare un bambino, me lo prendo, se poi vivo con un uomo, con una donna, con un animale da cortile, in questo caso non viene chiesto, perché la stessa cosa debba essere richiesta comunque per bambini con i quattro quarti di capacità di vivere nel consorzio umano. Gianetto Gassani, riprendiamo con l'avvocato Gassani, che ricordo che a Bologna, per un importante convegno dell'AMI, che è l'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, che tratterà proprio il tema delle adozioni alla luce di quello di cui stiamo discutendo. Tra poche ore, alle 14, alla sala Marco Biaggi del Quartiere Santo Stefano, inizia questo convention con avvocati e magistrati per parlare appunto di tutte le problematiche. Poi vuoi anche fare una comunicazione: domani presento il mio libro dedicato ai divorziati alla libreria Mondadori di via D'Azeglio, proprio di fronte alla casa di Lucio Dalla, e sono molto contento perché si parlerà anche di questo aspetto delle famiglie. Vabbè, cade proprio a proposito, visto che il tema della famiglia è improvvisamente diventato il tema portante, tutta l'emotività del paese, è giusto che ci sia una persona che conosce bene gli aspetti anche problematici ci possono essere all'interno della famiglia, che presenti nella sua realtà dei fatti. Però vedi, l'ultimo ascoltatore riporta un tema. Io forse mi fisso quando voglio per forza capire bene qualcosa che non capisco fino in fondo. Non c'è un piccolo sentore di ipocrisia su questa difesa a spada tratta per un modello teorico di famiglia, l'unico che può accogliere all'interno un bambino, quando i bambini proprio più bisognosi di persone con capacità e con mestiere di genitori sono quelli che possono essere affidati anche a genitori single, ad esempio? Allora, io dico che innanzitutto questa norma, questo articolo 44 parla di casi particolari, di casi limite, di casi eccezionali, cioè di bambini che hanno perso il papà o la mamma, non hanno soltanto uno dei due genitori, e uno dei due genitori ha la scelta di allacciare una relazione omosessuale. Si tratta di casi limite, di casi minimi dal punto di vista numerico, ma che comunque rappresentano una realtà che va tutelata. Quindi io credo che non ci sia un discorso, non ci debba essere un discorso talebano che la famiglia deve essere composta necessariamente da un padre o una madre, perché ci sono casi eccezionali in cui questo purtroppo non è più possibile, e quando non è più possibile bisogna trovare un rimedio. Ovviamente in tutti gli altri casi, almeno l'attuale legge non prevede un'adozione delle persone dello stesso sesso nella maniera più assoluta, in tantissimi altri paesi non è prevista una cosa di questo tipo. Tuttavia però sulle unioni civili, scusa se apro e chiudo la parentesi, bisogna fare qualcosa, quindi il disegno di legge va bene, l'importante è che si parli chiaro, questo è quello che voglio dire. Sulle adozioni io credo che molto difficilmente nel nostro paese nei prossimi anni sarà possibile per una coppia dello stesso sesso andare all'estero ad adottare un bambino, ma soprattutto bisogna stare attenti ai cosiddetti cavalli di Troia, cioè far passare dei principi che servono poi a creare il cosiddetto mercato dei bambini acquistati all'estero. Su questo credo che tutti gli italiani, tutti gli schieramenti siano d'accordo, non si può fare una cosa di questo. Sì, in effetti, diciamo, il punto debole di questa legge, che ormai è forse un po' datata, è proprio questo, che potrebbe permettere comunque dei mercimoni sotto banco, perché fine questo bambino... La legge non lo permette assolutamente. No, però, la legge lo esclude, però... Potrebbe esserci qualcuno che cercando di aggirarla potrebbe intraprendere qualcosa del genere. Questo è un pericolo, perché in altri paesi purtroppo questo avviene. Credo che uno dei più gravi crimini contro l'umanità è quello di andare a strappare un bambino a una mamma dietro pagamento di soldi, fare un contratto e addirittura prevedere che durante la gravidanza la mamma debba abortire. Cioè, queste sono cose orrende, non c'entrano niente con la tutela dei diritti delle omosessuali. Questa sì. È una cosa orrenda, punto e basta. E credo che gran parte degli omosessuali su questo siano d'accordo. Questa è soltanto una piccola parte di persone che ancora hanno ragione, indipendentemente dai propri orientamenti sessuali. Ecco, ma perché tu dicevi, diciamo, che la legge viene chiamata con un nome che non è quello proprio, unioni di fatto, quando in realtà è un matrimonio? Perché lo schema delle unioni civili è uno schema praticamente sovrapponibile a quello del matrimonio, quindi tutti gli obblighi derivanti dai diritti e doveri derivanti al matrimonio sono sovrapponibili a quelli delle unioni civili. Ma anche l'obbligo di fedeltà, cioè sì. Addirittura sì, anche, ma addirittura se dovesse spaccarsi la famiglia. No, questo è bene dirlo, perché forse non è tutti chiaro. No, nell'unione civile c'è anche l'obbligo di fedeltà. Ecco. Sì, vorrei tutte le stesse cose. La solidarietà, il mantenimento, il TFR, la pensione, le... È la prima volta che lo sento dire, Gianetto, che non l'aveva detto nessuno. Davanti a milioni di ascoltatori. Poi certo c'è un altro aspetto ancora più importante: in caso di crisi della coppia, quindi di spaccatura della coppia, si applicano per analogia le norme sul divorzio. Allora, se esiste praticamente un divorzio, vuol dire che esiste per forza un matrimonio. Non esiste un antibiotico senza un'infezione, non esiste un divorzio se non c'è un matrimonio. Però se uno dice voglio a tutti gli effetti avere tutto quello che hanno gli altri, si prende anche... Per me sta benissimo, per me le coppie omosessuali hanno il diritto... Però si prendono anche tutto questo, devono saperlo. Credo che per un paese importante come il nostro le cose vanno dette con nome e cognome. Noi avvocati, i magistrati, siamo abituati a dire le cose per nome e cognome. Tutto qui. E grazie Gianetto Regassani, mi sembra grazie che siamo arrivati alla conclusione della trasmissione. Ringrazio Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Non è che oggi abbiamo voluto dare un chiarimento totale, ma c'erano alcuni punti che secondo me era giusto che emergessero. Ma è emerso che già esiste una legge che permette a persone non nell'ambito della coppia rituale di adottare dei figli, e che la legge che stanno per passare prevede l'obbligo di fedeltà. È giusto che tutti lo sappiano. Alla prossima.